TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Gorizia, 110 kg di cocaina su un camion croato controllato a Fernetti, arrestato il conducente, serbo. Nevicate sul Carso triestino, fiocchi anche in città con la bora e temperature in discesa ovunque in regione. Il piano antineve di Autostrade Alto Adriatico. Bomba a mano ritrovata a Trieste nel tratto alto di via commerciale, strada chiusa per un'ora, è un residuato dell'ultima guerra. Porto di Trieste, i progetti di investimento sono fermi, l'allarme del presidente degli spedizionieri. Arriva la Befana questa mattina in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale di Udine, stasera l'accensione dei primi falò. Pordenone, Villa Cattaneo diventa PFM, ovvero Polo del Futuro Musicale, la nuova scelta del comune. Sport pallavolo in A2 maschile, la Tinet Prata è campione d'inverno, in testa anche la CDA tra le donne, ma dopo la seconda sconfitta consecutiva è mini crisi. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In primo piano l'operazione antidroga messa a segno dalla Guardia di Finanza di Gorizia, che ha sequestrato 110 kg di cocaina. La droga si trovava su un camion croato che trasportava materiale per l'edilizia ed era diretto in patria. Il conducente è stato arrestato. I particolari. Un faro malfunzionante ha tradito Dušan Vujičić, 54enne camionista di nazionalità serba, anomalia che ha insospettito gli uomini delle fiamme gialle presenti all'Isert per controlli di routine. L'autista non si è fermato all'alt e ha proseguito verso Fernetti. Fermato prima del confine, l'ispezione dell'abitacolo ha rilevato 3 borsoni contenenti 100 pannetti di cocaina purissima per un peso totale di 110 kg, dal valore di 10 milioni di euro che, opportunamente tagliati, ne potevano fruttare ben 20. Il colonnello della Guardia di Finanza di Gorizia, Andrea Esposito. Un sequestro molto ingente di cocaina pura in questo caso. Le nostre pattuglie hanno quindi deciso di operare un controllo, il mezzo è stato fermato in sicurezza e condotto presso la nostra caserma. La provenienza è incerta, diciamo c'era un carico che accompagnava questa merce, quindi era materiale destinato poi all'edilizia. Il TIR trasportava un carico di piastrelle dirette in Croazia ed è partito dalla Spagna, punto di ingresso della droga proveniente dal Sud America. La modalità del trasporto fa presumere un diretto coinvolgimento dell'autista, in quanto la merce non era occultata nel vano di carico, quasi sempre una situazione estranea a chi conduce il mezzo. L'autista è rinchiuso nel carcere di Trieste, non ci sarebbero riscontri sui suoi precedenti in area Schengen, sono in corso le indagini della DDA di Trieste sulla rete di smercio e sulla possibile destinazione finale dello stupefacente. Gorizia, Andrei Marušić e Maurizio Merva, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo da nuvoloso a coperto sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 2 gradi, c'è bora che soffia alla velocità media di circa 30 orari con raffiche che nella mattinata hanno raggiunto i 70 orari, a Udine 4 gradi, a Gorizia 3 gradi e mezzo, a Pordenone 1 e 5 decimi, nell'area montana a Tolmezzo 2 gradi e 5 decimi sotto zero, a Tarvisio meno 6, a Sappada meno 11, a Forni di Sopra meno 3, ci sono 2 gradi e mezzo sotto zero sul Piancavallo e in quota sullo Zoncolan meno 9, sull'Ussari meno 12, sulla costa a Lignano e a Grado 4. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per questo pomeriggio: cielo da nuvoloso coperto sul Carso e a Trieste non è esclusa ancora qualche debole precipitazione sparsa con neve forse fin sul livello del mare, soffierà bora da moderata sostenuta specie sulla costa e nelle zone orientali anche localmente forte a Trieste. Dunque, arrivata la perturbazione dell'Epifania, abbiamo sentito con bora, neve a livello del mare, temperature in discesa. Questa mattina 14 gradi sotto lo zero a Sappada, mentre sul Carso triestino, ma anche in città, i fiocchi sono arrivati poco prima delle 8. I fiocchi di neve che scendono sugli alberi di Natale in Piazza Unità è tutto un selfie, una fotografia. Siamo di Trieste, le foto le mandiamo ai parenti siciliani, abbiamo lasciato Palermo pochi giorni fa e ora abbiamo la neve qui a Trieste, racconta una coppia. La neve fa persino ballare, una ragazza iraniana viene dal nord dell'Iran, lì c'è sempre la neve, dice, qui in 2 anni è la prima volta che la vedo, sono eccitatissima, mi sembra incredibile, mi sento quasi a casa. In effetti l'ultima nevicata a Trieste risale al 23 gennaio del 2018, una nevicata più debole debole era caduta il 6 aprile del 2021. In quell'occasione si erano accumulati una quindicina di centimetri, ma solo al valico di Pesek. Il centro città in queste vacanze di Natale è pieno di turisti. Una coppia di Milano ha detto: in 3 giorni abbiamo visto di tutto, bora, sole e ora neve. Non siamo abituati a questa varietà di clima. Milano è più asettica, dicono. Siamo venuti ieri e c'era la bora forte e ora la neve. Poi incontriamo tanti appassionati del running in città per la corsa della bora di ieri. Hanno approfittato dell'evento per visitare la città. Sembra strano, dicono, vedere una città sul mare con la neve. I più coraggiosi si avventurano persino al Molo Audace, dove la bora soffia forte ma la neve non si placa. Ero a Tarvisio, racconta un signore triestino, e sono tornato a Trieste per vedere la neve. Questo mondo va proprio al contrario. E poi una coppia di ragazze di Belluno, anche lì niente neve. A casa, ci hanno detto, non ci credono che abbiamo trovato la neve a Trieste, quando lì se la sognano. La neve era prevista per la giornata di domani. La nevicata odierna ha avuto una traiettoria più a nord rispetto a quello che prevedevano i modelli dell'ARPA e quindi ha toccato anche Trieste. Domani, fa sapere l'ARPA, passerà un secondo fronte con andamento simile al primo, anche se permane l'incertezza sugli effetti per il Friuli Venezia Giulia. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Autostrade Alto Adriatico ha innalzato i livelli di attenzione in relazione alle previsioni delle prossime ore sulla propria rete, in particolare nella zona del Carso Triestino. La concessionaria dispone, affidandosi a ditte esterne, di 140 mezzi operativi tra spargitori, botti spargiliquido, lame e frese. Un apposito software consente la chiamata automatica delle ditte convenzionate. In diversi punti della rete autostradale sono attrezzati una 60 di impianti di stoccaggio del sale per i trattamenti preventivi e per lo scioglimento del ghiaccio. 11 postazioni rilevano in tempo reale i dati meteo e, fornendo una serie di parametri quali temperatura e umidità sulla superficie di pavimentazione, che vengono monitorati dai tecnici e dagli operatori. Voltiamo pagina. A Trieste, la via commerciale nel tratto finale tra salita di Conconello e strada nuova per Opicina è stata chiusa al traffico tra le 11 di questa mattina e mezzogiorno a causa del ritrovamento di un ordigno esplosivo nella parte boschiva. Gli artificieri della questura, intervenuti sul posto, hanno constatato che si trattava di una bomba a mano risalente alla Seconda Guerra Mondiale e hanno disinnescato l'ordigno. Non si segnalano danni né a persone né a cose. I progetti di investimento nel porto di Trieste sono fermi, bisogna portarli avanti per assicurarci un ruolo da protagonisti nel nuovo corridoio commerciale globale che dall'India arriva fino a noi passando per il Medio Oriente. Lo afferma il presidente degli spedizionieri Stefano Visintin, intervistato questa mattina nel corso di Buongiorno Regione. Lo ascoltiamo. È uno dei grandi progetti geopolitici degli ultimi anni, il corridoio economico IMEC, India, Medio Oriente, Europa. L'Italia punta su Trieste come porta d'ingresso europea del corridoio, ma la concorrenza è forte. Marsiglia resta il principale rivale nel Mediterraneo. Che cosa può fare intanto il porto di Trieste per essere protagonista in futuro? Stefano Visintin, presidente degli spedizionieri del porto di Trieste. Dobbiamo essere determinati, giustamente, nella nostra rappresentanza presso l'Unione Europea, nel sostenere la nostra candidatura. Io sono convinto che ci sono tutte le condizioni per rafforzarla e quello che dobbiamo fare è continuare nei nostri progetti di investimento, che sono un po' fermi in questo momento, ma che devono riprendere più presto. Dobbiamo completare le opere infrastrutturali sulle ferrovie, nella cintura del porto di Trieste e soprattutto, come ha annunciato l'assessore regionale competente, dobbiamo riprogettare il collegamento ferroviario tra Trieste, Monfalcone e Ronchi. Sulla carta promette di ridisegnare le rotte commerciali globali, ma al momento è ancora lontano dal diventare una realtà di fatto. IMEC fondamentalmente è un progetto che coinvolge una parte marittima, una parte terrestre, sia con strade che con ferrovie, una parte di trasmissione dati e la realizzazione di interporti lungo la parte terrestre. E quindi un progetto che sarà sicuramente molto lungo da realizzarsi e che ovviamente richiede grandi finanziamenti. La buona notizia è che i finanziamenti ci sarebbero già, la cattiva notizia è che per le tensioni tra paesi arabi e ovviamente la guerra di Israele a Gaza hanno rallentato il processo che dal 2023 è iniziato. Insomma, questi conflitti non giovano allo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia perché rallentano un progetto che potrebbe avere ricadute importanti sull'economia dei porti di Trieste e Monfalcone, sulla logistica e sull'occupazione. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. A Tarcento ieri sera la cerimonia del 71esimo premio Epifania, i riconoscimenti sono stati consegnati alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia nelle mani dell'assessore regionale Riccardo Riccardi e al giornalista Tommaso Cerno. La manifestazione organizzata dall'associazione Pro Tarcento. Questo premio, ha detto Riccardi, è risultato di una comunità straordinaria. I veri protagonisti sono i volontari, quelli che definisco l'esercito della solidarietà. La Protezione Civile nasce dal terremoto del 1976 e da allora questa esperienza non si è fermata al Friuli ma si è estesa a tutto il territorio nazionale, diventando uno dei movimenti popolari più rilevanti del paese. Oggi la vigilia dell'Epifania, una giornata in cui la Befana è attesa anche nei luoghi di cura. Questa mattina è arrivata a Udine nel reparto di pediatria dell'ospedale. Nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Udine sono arrivati Babbo Natale, gli Elfi e la Befana. Becchietta piuttosto arzilla balla al suono di Happy Day suonando la scopa a mo' di chitarra. Con l'animazione entra in reparto anche la musica, un momento di allegria donato ai bambini, come da qualche anno a questa parte, dall'associazione Diritti del Malato. Abbiamo portato le calze alla Befana, un po' di giochi, panettoni e pandori per il personale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, dice Anna Grizzi, presidente dell'associazione Diritti del Malato. La ringraziamo, l'azienda sanitaria, per darci l'occasione di portare un po' di gioia in questo reparto dove ci sono più piccoli che soffrono. Dal pronto soccorso la Befana Svetlana, gli Elfi Federico e Vincenzo e Babbo Natale Gianluca si spostano in degenza pediatrica dove sono tutti pieni i 16 posti letto, proprio come nel periodo natalizio. La patologia influenzale è quella che si vede con più frequenza, dice Angelo Di Giorgio, ricercatore di pediatria dell'Università di Udine. Ci sono anche altri virus e malattie batteriche che interessano l'apparato respiratorio, ma anche l'apparato digerente. Quotidianamente riusciamo ad avere dalle 2 alle 4 dimissioni qui in degenze, posti letto che si liberano ma vengono subito rimpiazzati da bambini che si trovano in pronto soccorso pediatrico. Quanto al Covid, non molti casi, molti meno rispetto agli anni passati. Non ha fatto mancare il suo supporto all'iniziativa l'APU Udine, presente con il coach Vertemati e l'ala Aubrey Dawkins. Ci fa piacere portare un po' di gioia ai piccoli che non stanno attraversando un bel momento, afferma Adriano Vertemati, l'allenatore dell'APU Udine. Ma è giusto che anche questi bambini sotto le feste possano vivere un po' della magia del Natale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi la prima serata dei falò epifanici che a seconda delle diverse località assumono nomi diversi, da Pignarulla a Foghera, da Panevin a Femenate. Oltre 200 gli eventi in programma in regione tra oggi e domani per festeggiare la Befana. Tra i più suggestivi rimane comunque l'appuntamento con il Pignarul Grant a Coia di Tarcento in programma domani sera. Arrivano le Varvuole, l'appuntamento conclusivo del cartellone di spettacoli per le festività di Grado. Le streghe del mare, come da tradizione, sbarcheranno dalle loro barche a Porto Mandracchio alle 17.45 per raggiungere poi il centro tra grida e incantesimi, cercando di portare via i bambini cattivi delle città. A Pordenone Villa Cattaneo diventa polo del futuro musicale. Il nuovo progetto è inserito nel contesto della capitale italiana della cultura. In passato era stata Polo Young, incubatore di start-up culturali gestito dal Polo Tecnologico. Poi, scartata fra le altre l'ipotesi di farne la sede temporanea dei giudici di pace, era arrivata l'assegnazione a un raggruppamento temporaneo di imprese che avrebbe dovuto trasformarla in una sorta di cittadella digitale. Ma quel progetto non era mai decollato. Ora il comune di Pordenone, proprietario di Villa Cattaneo dal 1980, punta di nuovo sui giovani per il complesso risalente probabilmente alla fine del Seicento e da tempo in cerca di una sua identità. Giovani e musica. Scadrà infatti fra una decina di giorni, il 16 gennaio, l'avviso pubblico Call for Funders per la ricerca di under 35 che andranno a formare la componente maggioritaria del soggetto gestore di quello che dovrebbe diventare il PFM, Polo del Futuro Musicale. Non una scuola di musica e neanche un doppione della Casa della Musica già insediata nella ex Biblioteca Civica di Piazza della Motta, ma un centro di eccellenza dedicato alla sperimentazione con sale prove e studi di registrazione. E ci sarà posto anche per un centro studi dedicato al musicologo Mario Bortolotto, che ha lasciato alla Biblioteca Civica tutto il suo patrimonio librario. Il nuovo progetto è inserito nel grande contenitore di Pordenone Capitale della Cultura 2027 e può contare su un finanziamento di 350.000 euro. Il soggetto gestore dovrà essere composto per almeno il 51% da under 35. Saranno poi costituiti un comitato scientifico e un tavolo di sostenitori inizialmente coordinato dal Comune, con l'obiettivo nel tempo di rendere il polo economicamente autonomo. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Concerto di apertura 2026 per la European Spirit of Youth Orchestra, orchestra giovanile, palestra di talenti da tutto il mondo, che in scaletta proporrà l'esecuzione di brani di Beethoven e Tchaikovsky a Trieste, al Politeama Rossetti alle 20.30. Fondatore dell'orchestra, il maestro Igor Coretti Kuret, a cui abbiamo chiesto come si sono svolte le ultime selezioni di orchestrali. Come ogni anno, le selezioni, soprattutto dopo l'interruzione del Covid, si svolgono ormai online. I ragazzi hanno degli strumenti che usano quotidianamente, che hanno, ci garantiscono una sufficiente qualità di registrazione, video, naturalmente manca l'intervista che ti permette poi di capire il carattere del ragazzo, eccetera, eccetera. Diciamo, le audizioni si svolgono sempre tra il 1° dicembre e il 31 di marzo di ogni anno. Pertanto il gruppo che si esibisce questa sera è un gruppo che ha già suonato la scorsa estate, perché sono quelli che sono stati selezionati nel 2025, e con loro qualche altro ragazzo, perché il concerto del Capodanno del 5 gennaio, che ormai diventerà un appuntamento tradizionale, è anche un'occasione di reunion di qualche ragazzo che ha il piacere di ritornare a suonare in orchestra nella quale è cresciuto musicalmente, anche se ormai svolge la professionalità, la sua professione. Il concerto d'apertura della stagione United Together è un nuovo inizio. Un nuovo inizio perché si vuole valorizzare il capitale umano. In questi più di 30 anni di attività dell'orchestra sono passati più di 3.000 ragazzi. E tra questi ci sono delle stelle, ci sono delle punte di diamante che si esibiranno in veste di solista. Composizioni d'alto livello, Beethoven e Tchaikovsky per il programma? Sì, Tchaikovsky, perché comunque si vuole dare anche un messaggio chiaro che i capolavori di autori russi sono dei capolavori assoluti e vanno valorizzate, i giovani devono suonarle, non dobbiamo lasciare che la politica avveleni la loro crescita, perché ci sono paesi dove le musiche dei compositori russi come Tchaikovsky sono vietate, ecco, e questo lo trovo una follia aberrante che assolutamente non dobbiamo trasmettere ai giovani. Siamo allo sport, pallavolo, la Tinet Prata chiude al primo posto il girone d'andata nella A2 maschile, netto il 3-0 casalingo su Sorrento, che consente ai pordenonesi di tenere a distanza l'Abba Pineto 3 punti più sotto, anche se con lo stesso numero di vittorie, 10. Nel girone di ritorno la Tinet ripartirà dal campo del Lago Negro, che in classifica occupa il 6° posto. Nella A2 femminile, seconda sconfitta consecutiva per la CDA Talmasson, sbattuta da Padova sul proprio campo alla Tisana. Le venete hanno prevalso in 4 set, il meno combattuto è stato quello vinto dalle friulane, il secondo chiuso sul 25-16. La CDA rimane al comando della graduatoria, la squadra di Barbieri giocherà nel prossimo turno sul campo del Fasano. Passiamo al basket di Serie A. Udine ha sfiorato il gran colpo a Milano, 85-84, finale spietato per la squadra di Vertemati, che però ha fatto vedere di che pasta è fatta. Il basket è anche questo, uno sport dove non basta giocare bene ed essere avanti per gran parte della partita contro i più forti per vincere, e dove in 2 secondi si può passare dalla gioia allo sconforto. A Milano, nel Tempio del Palalido, si vede per 39 minuti e 58 secondi la migliore versione dell'APU, una squadra che difende, che trova canestre minuti anche dai giocatori più discussi come Dawkins, e che dopo essere stata ripresa dal talento dell'Olimpia nel finale di secondo quarto, approccia in maniera perfetta la ripresa, dal meno 7 al più 9, con Calzavara che si conferma come uno degli esterni più promettenti del campionato, tra contro contropiedi e capacità di creare canestri difficili. Ma sono gli ultimi minuti quelli che contano. La squadra di Vertemati cerca di gestire, si sporca le mani, non si arrende nemmeno quando Guzuric firma il controsorpasso e poi, a due minuti dalla fine, fa addirittura più 5. Alibegovic, alla miglior prestazione nella massima serie della carriera, guida la rimonta e gli altri seguono. Tripla del capitano e poi ottima difesa che porta il contropiede del pari di Criston, leader indiscusso del gruppo. Dopo il nuovo pari firmato Spencer, Udine difende e si mangia le mani per il 2-4 liberi di Calzavara, che peseranno tantissimo. Così c'è un finale da 9 punti in meno di 10 secondi. Ellis trova l'idea in buca d'angolo, tripla e partita che sembra chiusa, anche perché Vertemati non ha più time out. Così Alibegovic galoppa verso il canestro e sempre da 3 segna fuori equilibrio un canestro che a rigor di logica dovrebbe valere la vittoria. Eppure Mirz invita la calma, quasi prevedendo quello che succederà dopo. Dal minuto di sospensione Udine esce difendendo benissimo ed evitando di fare fallo. Il missile, quasi senza guardare, di Armoni Brooks è un gesto tanto bello quanto crudele, per una sconfitta che i bianconeri non meritano. 85-84 e aggancio all'affollato sesto posto fallito. Ma c'è anche la consapevolezza che giocando così nessun obiettivo è precluso. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche Trieste perde di misura a Trento, ma in questo caso non c'è nulla da salvare, anche se coach Gonzales ha tentato di farlo in conferenza stampa al termine del match. I biancorossi erano avanti anche di 20 punti, hanno perso 89-87 con un ultimo quarto da film dell'orrore. Il mitico Aza Nikolić, allenatore della vecchia scuola jugoslava, avrebbe parlato di calcio al secchio di latte appena munto. Trieste perde a Trento una partita inspiegabile, dominata per 29 minuti, mostrando almeno in attacco il miglior volto della stagione. Ma con una squadra in crisi di identità e con gran parte dei giocatori sconnessi da un contesto disfunzionale, accumulare 20 punti di vantaggio evidentemente non basta. Così gli assist di Ruzziere, la finalmente ottima mira dall'arco, i passaggi di Toscano Henderson, i 9 punti di Capitan De Angeli nel primo tempo, svaniscono nel nulla in un quarto finale da incubo, anche se le avvisaglie arrivano prima, dove i biancorossi segnano sì 29 punti, ma ne subiscono 30. E da pessime difese nasce la paura. Trento, un campo dove storicamente la pallacanestro Trieste colleziona figuracce, guadagna la fiducia aumentando l'intensità e gli americani della pattuglia giuliana cominciano statici uno contro uno che portano errori e palle perse. Per 7 minuti non c'è nemmeno un punto segnato e il punteggio rimane favorevole soltanto perché anche i trentini graziano dalla distanza. Arriva il canestro casuale di Ramsey, cui però segue anche uno 0-2 liberi sanguinoso e arriva soprattutto in maniera altrettanto casuale la tripla di Ruzziere allo scadere dei 24 secondi che sembra scacciare l'incubo. 81-87 e più 6 a poco più di un minuto da giocare. Solo che nelle stagioni nate male va tutto storto. Orridge ripaga immediatamente con la stessa moneta a Ramsey, che aveva pasticciato per tutto il quarto, sfonda. A questo punto il panico. Dopo 2 liberi segnati dai padroni di casa, gli USA non si prendono responsabilità, costringendo di nuovo Ruzziere a un tiro dall'angolo, che però stavolta non va. Dall'altra parte Battle sfida Toscano Henderson e si conquista il canestro e fallo che vale il sorpasso e la partita, anche perché l'ultimo uno contro uno di Brown è una preghiera che non merita di essere ascoltata. 89-87 è pessimo inizio di una settimana che vedrà 2 impegni di coppa prima dell'ultima di andata in casa contro Cantù domenica. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Calcio nel campionato di Serie C, torna in campo la Triestina che allo Stadio Rocco questa sera ospiterà l'Alcione Milano per la 20ª giornata, la prima del girone di ritorno. L'Alcione è nona con 27 punti, l'inizio della gara alle 20:30. Passiamo alla scherma, Udine seconda, giornata della tappa di Coppa del Mondo femminile di spada al Palaberne, sono oggi in pedana le atlete della categoria Under 20, le iscritte sono 236 in rappresentanza di 40 paesi. I primi assalti sono cominciati alle 9:30, già conclusi gli incontri per la metà delle 34 pool eliminatorie, dalle 11:30 sono in corso quelli degli altri 17 raggruppamenti. Domani la tre giorni udinese si chiuderà con la prova a squadre, saranno 21 i team partecipanti. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:53, vi lasciamo alla programmazione di Radio 1, prossima edizione del GR regionale alle 15. Grazie per averci seguito, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.